senz'altro più che un amico. Tu sarai la mia stella, tu sarai la più bella in questa notte. Insieme a te la vita mi inventerò e non sarò solo.